tutti, grazie a tutti che siete qui. Oggi volevo solo ricordarvi che l'iniziativa di oggi farà parte di tutta una serie di iniziative che si svolgeranno nel mese di marzo dedicate a Primo Moroni, perché ricorre, come tutti gli anni, ricorre l'anniversario della sua scomparsa. Chiaramente tutte le altre cose non sto qui a raccontarle perché ce ne sono diverse, ma quelli che ricevono le nostre mail saranno informati. Chi è presente e non riceve le nostre cose e vuole lasciarci la mail, noi provvediamo poi a inserirli e così ricevono il materiale. Un'altra segnalazione è relativa a quel libro che trovate sul banchetto là in fondo, cioè che è Quando muoiono le insurrezioni, un libro che Calusca ha dato il contributo fondamentale per la curatela, per il tutto, insomma, per realizzare questa opera che, come recita il titolo, prende in considerazione dei momenti importanti che riguardano l'Italia del 1922, la Germania del 1933 e la Spagna del 36-39, cioè tutti quei momenti che, bene o male, venne tentata quella che una volta si chiamava l'assalto al cielo, via, oppure lo scontro contro i poteri. Comunque, siccome questi argomenti, cioè il fascismo, l'antifascismo, la rivoluzione, sia di ieri che di oggi, sono argomenti che non muoiono, vale la pena prendere in considerazione questo lavoro che ci è costato fatica e anche denari, che è là sul banchetto e che oggi mi dicono dalla redazione, invece che 25, è possibile averlo a 20 euro. Detto questo, entro nel merito della serata che, come Centro di Documentazione contro la Guerra, abbiamo messo in piedi. Chiaramente chi ha visto la nostra locandina, chi ha ricevuto le nostre comunicazioni, si sarà reso conto che il tema sarebbe vastissimo, perché, e quindi cercheremo di tenere fermo alcuni punti che possono essere più interessanti per andare a dare delle informazioni più specifiche rispetto a alcuni argomenti che parlare del tutto senza entrare nel merito. Io adesso lascio la parola a Sandro, al quale spetta sotto certi aspetti il compito un po' più difficile, perché dovrebbe parlarci delle guerre di tutte le parti, però siccome è bravo noi lo prendiamo sempre. Come i suoi contributi li prendiamo come validi. A te, Sandro. Grazie Marco, grazie a tutti per essere presenti. Parliamo di guerra, sono venuto più volte qui a parlare di guerra, sia quando è uscito il mio libro, si intitola all'epoca La guerra che viene, ed era del 2019. Poi abbiamo continuato a parlare di questa guerra che veniva, ecco, adesso sarebbe ora di cambiare titolo, no? Cioè, io avrei scelto come titolo della mia relazione, l'ho detto già prima, è finita la cuccagna, ovvero, se vogliamo dirlo in napoletano, è fernuta zizzanella. Perché è finita la cuccagna, è fernuta zizzanella? Perché evidentemente quella tendenza alla crisi del dominio occidentale del mondo, intendendo con dominio occidentale la super presenza americana ma anche europea in ambito economico, finanziario, politico, internazionale, è stata ormai definitivamente messa in crisi. Come ho detto più volte, non da nemici che ci piacciono, sono simpatici, ma evidentemente la competizione economica scatenata proprio da quella globalizzazione con cui l'Occidente per un periodo si è convinto di aver posto fine alla storia ha riportato in auge contraddizioni che sono quelle che hanno percorso tutto il Novecento, percorrono il capitalismo, l'imperialismo, la sua economia e pongono delle questioni nuove anche a noi, però su queste questioni nuove vorrei parlarne alla fine. Oggi siamo in presenza di una guerra, in particolare in due punti caldissimi del mondo, ovvero il fronte ucraino e attualmente quello medio orientale con quello che succede a Gaza, di una guerra e di molte altre aree, a cui accennerò dopo, in cui evidentemente si mescolano in questa guerra grande, come la chiamerebbe Lucio Caracciolo, guerra mondiale se vogliamo, si mescolano aspetti molto diversi tra di loro. Abbiamo una guerra imperialista classica, non più le operazioni di polizia, l'ho già detto altre volte, con gli eserciti, ma abbiamo eserciti da centinaia di migliaia di soldati che si scontrano sul fronte dell'Europa orientale. Abbiamo una guerra coloniale e anticoloniale come quella a cui assistiamo in Israele. Abbiamo una guerra ibrida che non è soltanto quella della Russia o degli americani nei confronti l'uno dell'altro, ma una guerra ibrida che mescola tecnologie avanzatissime con tecnologie tutto sommato da basso costo, una cosa su cui ho insistito diverse volte dal punto di vista militare. L'uso dei droni è qualcosa che ha in qualche modo, è forse la caratteristica principale che è venuta fuori sia sul fronte ucraino ma che attualmente anche adesso sul fronte medio orientale, no? I droni, che prima era una cosa utilizzata soltanto per il killeraggio dei capi avversari, soprattutto da Israele e dagli Stati Uniti, oggi sono diventati roba comune, no? La Turchia è il principale produttore di droni, ma anche l'Iran come produzione di droni non scherza. Quindi delle tecnologie relativamente a basso costo che pesano tantissimo sul campo di battaglia, per cui noi abbiamo dei campi di battaglia in cui abbiamo la fanteria tipo prima guerra mondiale, i carri armati tipo seconda guerra mondiale, missili avanzatissimi o arretratissimi, dalle Katyusha russe ai missili più complicati che possono andare a colpire con estrema precisione certi bersagli, e poi abbiamo i droni, con qualcosa che sta scomparendo, no, dalla scena, che è l'aviazione classica. Ci continuano a dire, beh, qui ti abbattono i MiG russi, gli aerei russi, tutta questa cosa qui, però in realtà evidentemente, così come gli elicotteri hanno finito di funzionare in guerra con la guerra in Afghanistan definitivamente, erano già entrati in crisi in Vietnam dove sono stati, ma poi in Afghanistan sono stati decisamente, volavano solo di notte gli elicotteri in Afghanistan e non potevano più volare di giorno perché con armi piuttosto semplici era piuttosto facile abbatterli. Anche oggi l'aviazione non ha più tutto questo peso, infatti quello che una volta era il compito dei bombardieri eccetera adesso è affidato ai droni. Droni che per esempio alla Russia hanno fatto danni, però quando sentiamo parlare dei danni alla flotta russa del Mar Nero, ecco, tocchiamo proprio il punto, uno dei punti dolenti di tutta la questione. La Russia è sempre stata debole sul mare perché si trova con la flotta spesso chiusa in mari come il Mar Nero, il Mar Baltico o altri posti da cui può difficilmente uscire, si trova in difficoltà. È facile fare il tiro al bersaglio con le navi russe finché stanno nel Mar Nero o ancora di più nel Mar d'Azov. È un po' meno facile fare il tiro al bersaglio con le flotte che si muovono nell'Atlantico, nel Pacifico, nel Mar Mediterraneo e da altre parti. Quindi l'uso del drone poi ha dei limiti, perché non possiamo mandare un drone a bombardare la flotta americana nel Pacifico, però per danneggiare le navi russe del Mar Nero sicuramente. Però poi lo usano anche i russi, lo usano tutti, e quindi è tutto sommato, abbiamo visto anche che l'operazione militare di Hamas, ripeto, operazione militare di Hamas, perché sono da un lato contrario a parlare esclusivamente di genocidio rispetto a Gaza, direi che va avanti la pulizia etnica dei palestinesi con metodi genocidari, però dall'altra mi rifiuto di accettare la definizione di pogrom per quello che è successo in Israele il 7 ottobre, no? Perché il pogrom erano determinate cose che avvenivano nell'Europa orientale, in altre parti d'Europa, non è stata quella roba lì, è stata un'operazione militare in cui si sono mescolati anche lì più piani. La guerriglia di Hamas ha usato dai deltaplani ai droni che hanno colpito le torri di controllo e così via. È ancora più significativo oggi, e questo ci fa vedere che la guerra mondiale sarà, scusate il termine, un gran casino, Lo vediamo con cosa succede sul fronte del Mar Rosso, col tipo di guerriglia complicata che gli Houthi, possiamo dire tranquillamente lo Yemen, se vogliamo essere sinceri, conducono contro la flotta occidentale, sia militare che mercantile. Poi lì ci sono anche degli aspetti un po' particolari, di ripetuti interventi in una situazione in cui, per esempio, gli Houthi avevano minacciato di bersagliare tutte le navi dirette in Israele, dicendo però le altre non le bersagliamo. Poi è chiaro che se gli americani, gli inglesi, eccetera, tutti, compresa l'Italia, mandano le navi militari lì per bombardare gli Houthi, possono questi reagire e andare a colpire anche le altre navi mercantili, che hanno continuato. La cosa poi incredibile è che hanno continuato a colpire queste navi mercantili, nonostante la presenza militare inglese, americana, eccetera. E non solo, ennesimo fattore, tra virgolette, nuovo di questa guerra ibrida è che gli Houthi hanno colpito le linee di comunicazione sottomarine fondamentali per il transito dei dati della rete a livello mondiale. E questo è un dato poca spesa, molta resa, da questo punto di vista, la classica tattica della guerriglia, che mette in difficoltà economica, politica, militare tutto il fronte occidentale. Quindi noi dentro la guerra ci siamo già, ho fatto questa panoramica non per dare prova di conoscenze della guerra, però voglio dire, ci siamo già dentro. Ci siamo ancora più dentro nel momento in cui, a fronte di un'evidente sconfitta ucraina, perché se gli Stati Uniti non forniscono costantemente di armi l'Ucraina, certo non sono bastati gli apporti europei a farlo, e però l'Ucraina non va in crisi soltanto perché non ha più armi, perché l'Ucraina ha perso anche molti soldati. Ora qui a me non piace fare il conteggio della serva, per cui ieri i russi hanno comunicato di aver ucciso 410, questi sono numeri veri, 410 soldati ucraini nei villaggi vicini a Advika, e oggi gli ucraini hanno subito risposto no, che per oggi loro hanno ucciso 960 soldati russi. Questi sono conti, oltre che orrendi, abbastanza discutibili. Bisognerebbe vedere queste centinaia di migliaia di morti che vengono attribuiti ai russi oppure dall'altra agli ucraini. Sicuramente tra i due eserciti, quello più grande è quello russo, quello più piccolo è quello ucraino, i danni fisici ai soldati ucraini e i morti sul fronte ucraino in proporzione contano di più, così come contano di più, poi questo aspetto magari lo cura Francesco dopo, però anche il tema delle diserzioni. È vero che molti russi hanno disertato l'esercito russo, ma gli ucraini che sono scappati dall'Ucraina sono anche tantissimi fin dall'inizio della guerra. Non so se l'avevo raccontato, se l'ho raccontato già una volta, scusatemi, ma fin dai primi giorni di guerra, quando ho fatto la prima assemblea sulla guerra a Genova presso l'associazione dei portuali, proprio i portuali di Genova, che in quei giorni stavano arrivando tantissimi giovani ucraini 18-19 anni travestiti da donne che scappavano dall'Ucraina. E lo stesso Adriano Sofri, che è un altro che ha appoggiato tutte le guerre possibili e immaginabili sempre in nome della democrazia e della libertà, qualche mese fa sulle pagine del Foglio, che come sapete non è esattamente un giornale antibellicista compagno, è stato costretto a dire che quei video che ormai giravano in Ucraina dei reparti speciali di polizia dell'esercito che andavano per la strada da acchiappare i giovani per arruolarli a forza, non facevano fare una gran bella figura alla causa ucraina, no? Quindi voglio dire, c'è questo problema, ci sono i morti, ci sono i feriti, c'è questione di numeri, e l'Ucraina da questo punto di vista è in difficoltà. È in difficoltà sul numero di armi disponibili, e è in difficoltà perché si è creata questa frattura enorme tra Zelensky e i comandi militari, ha fatto fuori Zaluzny, ma è notizia di ieri che il nuovo comando militare ha fatto fuori tutti i comandanti di brigata del fronte attuale sul Donetsk. Quindi quando ci sono questi ricambi vuol dire che c'è una crisi militare di comando, e che può diventare anche una crisi politica, parliamoci chiaramente, poi magari questo non succede. A fronte di questo, come ha reagito l'Occidente? Entriamo subito in guerra anche noi, passiamo all'economia di guerra, ma questo dimostra soltanto un fatto, che a differenza di quello che si era detto qui un po' di tempo fa, non è che prima c'è la costruzione economica della guerra e poi c'è la guerra. La guerra porta con sé lo sviluppo della necessità di un'economia di guerra. È chiaro che la Russia per prima è entrata in questa economia di guerra e poi per il tipo di economia che la Russia ha avuta fin dai tempi dell'Unione Sovietica, l'industria pesante ha sempre avuto un certo ruolo, più forse di quella dei prodotti di consumo, dei beni di consumo. Però evidentemente si sono fatti due conti, questi signori hanno visto che effettivamente la Russia poi questo gran danno dalle sanzioni non l'ha avuto, uno perché ha continuato a vendere petrolio tranquillamente alla Cina, all'India, e poi la storia più divertente è che una parte del petrolio venduto in India è rientrato in Occidente travestito in qualche altro modo, quindi il petrolio che non abbiamo pagato alla Russia sostanzialmente l'abbiamo pagato un po' più caro all'India, che in compenso aveva pagato la Russia molto meno di quanto l'avremmo pagato noi occidentali. C'è questo aspetto sicuramente, ma poi c'è da sottolineare come proprio di questi giorni giornali economici come Sole 24 Ore hanno sottolineato come le azioni di Leonardo sono cresciute negli ultimi due anni del 217% e le azioni della Rheinmetall tedesca, quella che poi produce anche i carri armati, sono cresciute del 498%, quindi 5 volte tanto. Quindi questo clima di guerra, di economia di guerra, ha cominciato a manifestarsi e si vede che probabilmente c'è la convenienza, però una convenienza che comporta alcuni rischi. Io ricordo sempre una frase di Chekhov che diceva: quando un fucile o un'arma da fuoco compare sul caminetto nel primo atto di un'opera teatrale, prima della fine dell'opera teatrale quel fucile avrà sparato. È chiaro che oggi sta comparendo anche sulla scena economica occidentale qualcosa di più di una pistola o di un fucile posato sul caminetto, no? Quindi la tendenza alla guerra, alla necessità poi di sfruttare il momento e poi di far sparare queste armi si sta avvicinando al gran galoppo. Tutto sommato la scusa ufficiale per adesso dei guerrafondai peggiori, che sono tutti democratici liberali e devo dirlo quasi tutti di sinistra, Trump ci abbandona. Oddio, cosa succede? Come facciamo senza l'ombrello americano? Dobbiamo fare la difesa europea. Primo passo per la difesa europea: più carri armati, più cannoni, più munizioni. Poi vorrei capire poi come trovano anche i soldati per questa difesa europea, ma parlavo appunto di sinistra, democrazia liberale, perché proprio in questi oggi c'è un rappresentante del Partito Socialista francese, Raphael Glucksmann, che dice proprio poche balle, in un'intervista rilasciata alla stampa proprio ieri, che è uscita oggi sul giornale, poche balle, Macron ha ragione, dobbiamo inviare i soldati sul fronte ucraino, perché questi senza la NATO, senza gli americani, senza di noi non ce la fanno più. E accoglie pienamente tutte quelle cose che Zelensky ha raccontato fin dall'inizio della guerra: se la Russia conquista l'Ucraina poi sarà in pericolo tutta l'Europa, noi stiamo difendendo i confini dell'Europa. Ormai la scusa è quella, no? Anche la Meloni credo abbia detto qualcosa del genere in questi giorni: ringraziamo Zelensky, gli ucraini che difendono il nostro confine orientale. Ma evidentemente queste cose qui, così come tutta la campagna di demonizzazione della Russia, di qualsiasi oppositore alla guerra, va proprio nella direzione di organizzare una mentalità favorevole allo scontro militare aperto e alla guerra. Però l'ultimo sondaggio Ipsos per adesso ci dice che l'82% degli italiani è contrario all'intervento della NATO in Ucraina. Poi quindi passi per convincere gli italiani, l'italiano medio, a entrare in guerra devono esserne fatti ancora parecchi. E questi sono aspetti importanti del nostro andare verso la guerra. Poi c'è la questione di Israele e di Gaza, no? E anche lì, per un attimo, io fin dall'inizio ho sempre detto, quando ci sono guerre e stragi di questo genere, parlare di guerra è una responsabilità ancora più che politica, morale, perché insomma non si può giocare agli schieramenti, sto con questo, sto con quello, nel momento in cui poi migliaia, decine di migliaia di persone, civili, donne, uomini, bambini, ma anche giovani soldati, lasciano la pelle in queste guerre. Però è evidente che, detto questo, noi non possiamo affrontare la questione di Gaza soltanto dal punto di vista umanitario. Io il punto di vista umanitario lo lascio ai pacifisti integrali. La questione di Israele è comunque una questione politica. è una grossa questione politica per noi, ma soprattutto per i palestinesi e per gli israeliani. Allora, potrò sbagliare, ma se gli ucraini stanno perdendo la guerra sul fronte orientale, al di là di quello che succederà nelle prossime settimane o mesi, Netanyahu ha già belle che perso la guerra a Gaza. Noi non dobbiamo fare il conto dei morti per capire chi vince la guerra. I vietnamiti hanno vinto la guerra, hanno avuto 3 milioni di morti negli anni della guerra, dal 65 al 71. In Afghanistan sono stati 176.000 gli afghani ammazzati, per una guerra durata 20 anni, da cui poi gli americani sono andati via senza nulla di fatto e senza aver ottenuto nulla. Non dico questo per il piacere di dire allora più morti meglio è. Certo che è una tragedia, è un dramma, però non fermiamoci a quella cosa lì. In 146 giorni di guerra e Netanyahu per adesso, oltre ad aver massacrato donne e bambini, fracassando completamente l'immagine di Israele davanti al mondo. Se dovessimo misurare la sconfitta di Israele, basterebbe una cosa. Quest'anno, il giorno della memoria, ha visto tutti i giornali, i telegiornali, iniziare non solo con i soliti titoli sulla Shoah, ma con i titoli che ricordavano che il tribunale dell'AIA, tutto sommato, aveva accettato la causa per genocidio intentata dal Sudafrica a Israele. Quindi nel giorno in cui si commemorava la Shoah, per Israele è arrivata l'accettazione da parte dell'AIA della possibile pratica del genocidio. Quindi questa era una cosa, ed è una cosa che si misura ogni giorno di più. Vediamo ormai che le Nazioni Unite sempre più spesso e in maniera assolutamente vergognosa, gli Stati Uniti devono bloccare tutte le risoluzioni di condanna, di richiesta del cessato il fuoco, che arrivano ormai, a parte pochi paesi, adesso la Meloni è andata da Biden a prendere gli ultimi ordini, e dalla maggioranza dei paesi assoluti che votano tutti contro Israele a favore del cessate il fuoco. Queste sono cose che mettono in crisi l'immagine di Israele in un governo che sa benissimo, se Zelensky dovesse oggi smettere la guerra, molto probabilmente cade politicamente. Se Netanyahu domani smette la guerra, cade sicuramente, non si rialza mai più. Dobbiamo tenere in conto questi aspetti della guerra, che sono aspetti prettamente politici, non soltanto per quanto riguarda il colonialismo di Israele nei confronti dei palestinesi di Gaza, i coloni che stanno prendendo sempre più territori in Cisgiordania, i coloni che sono penetrati in 500 già a Gaza in questi giorni, superando i posti di blocco israeliani. Però, per adesso, quello schianto dei palestinesi e dell'organizzazione armata, ci piaccia o meno, che fino adesso ha difeso Gaza, non è avvenuta. A fronte di uno degli eserciti più tecnologicamente avanzati, più preparati del pianeta, queste forze resistono. La scoperta per gli israeliani è stata brutta, si aspettavano 500 km di tunnel sotterraneo e ne hanno trovati 2000. Su un territorio di 363 km quadrati. Per capire le dimensioni, l'isola d'Elba è 330 km quadrati. Quindi è come se l'isola d'Elba fosse percorsa da 2000 km da tunnel in cui bisogna... E vedete che le hanno già provate tutte, no? E adesso prendiamo qui, prendiamo quella parte, poi scopriamo, sì, abbiamo bonificato il nord, attaccano il sud e improvvisamente i morti maggiori li hanno di nuovo a nord piuttosto che a sud. E chiaramente l'azione israeliana è stata tremenda. Distrutte tutte le infrastrutture, gli ospedali, le strade, lasciamo perdere le moschee, le chiese, eccetera, tutto quanto, ma è una guerra spietata che però per adesso non ha ancora ottenuto nulla di ciò che ha dichiarato. Qualcuno dice, in fin dei conti, Israele non ha una strategia, se non far la guerra e cercare di distruggere Hamas e i palestinesi. In realtà è una strategia che pesa sempre di più, sicuramente sulla popolazione palestinese, ma anche sulla stessa Israele, proprio per i motivi che dicevo prima, all'interno di Israele stessa. È chiaro che la partita prima su Netanyahu, poco democratica, vi ricordate tutti, credo, le manifestazioni che c'erano in Israele prima dell'inizio della guerra, e sono diventate forse più sporadiche, ma anche più decise, perché adesso quando i familiari degli ostaggi protestano o le associazioni che uniscono israeliani e palestinesi contro la guerra diventano più forti. Abbiamo visto la polizia caricare a cavallo, abbiamo visto l'uso dei cannoni ad acqua per cacciare la gente dalle strade di Tel Aviv davanti all'abitazione di Netanyahu. Quindi evidentemente ci sono delle forti contraddizioni. E notate bene, man mano crescono le contraddizioni, più cresce il livello di insulto, no? Oggi i giovani israeliani che rifiutano di essere ululati vengono tranquillamente definiti nazisti dagli altri, no? Dalla destra israeliana. È uno di quei paradossi pazzeschi, come adesso in America i maggiori sostenitori dell'associazionismo ebraico a favore di Israele, lasciamo perdere l'associazionismo ebraico contrario alla guerra, ma quelle sono le chiese evangeliche. E le chiese evangeliche sostengono che in realtà con la distruzione dello Stato di Israele inizierà l'Armageddon, quindi la battaglia finale tra bene e male, così questo genere. Quindi siamo in un mondo che da questo punto di vista è letteralmente impazzito dal punto di vista ideologico. Le narrazioni, e anche noi a volte siamo in difficoltà, credo che chiunque di noi lasciato da solo davanti alla TV, davanti al giornale, si accorge di essere spiazzato. Perché sono narrazioni spiazzanti? La più ipocrita è quella dell'Occidente, no? Dei paesi europei e l'America, e continuano a dare armi ad Israele e dicono però non fate troppo male ai civili. Credo che una cosa di questa ipocrisia non si sia mai vista, no? No, noi vogliamo che si raggiunga un accordo di pace, è però certo che Hamas è un'organizzazione terroristica che va distrutta, quindi lasciamo perdere l'ipocrisia in tutto questo. Ma io temo che questa narrazione spiazzante non sia... Io sono sempre stato molto poco complottista. Non sia qualcosa di voluto. È che davvero l'Occidente è spiazzato di fronte a tutto quello che sta avvenendo. Eravamo tranquilli, seduti sullo scranno, di padroni del mondo, un po' di soldini qui, un po' di fucilate là, e tenevamo tutto a posto, e adesso tutto ci sta sfuggendo di mano. E guardate, anche se si parla tanto di difesa europea, dico solo più questo, poi mi interrompo, non vanno tutti d'accordo in Europa. L'uscita di Scholz, che l'altro giorno ha detto non solo non diamo i missili Taurus con cui gli ucraini potrebbero colpire Mosca, e la Germania non vuole entrare in guerra con la Russia, anche perché una parte dell'economia tedesca ha molto sofferto questa interruzione dei rapporti con la Russia, ha messo a nudo anche che ci sono già specialisti però francesi, inglesi in Ucraina che operano. Oggi c'è La Verità, quel giornalaccio, ma che fa un bel articolo dettagliato su queste cose qui, della presenza di specialisti già francesi, inglesi, canadesi, probabilmente anche statunitensi, perché c'è anche da capire quando vanno a segno alcuni colpi che gli ucraini fanno con missili e altri apparati sulle forze russe o all'interno della Russia. Beh, quelle non è che il soldatino ucraino ha imparato nel giro di 3 settimane, di un mese, evidentemente ci sono degli specialisti che operano. Però nel momento stesso in cui Scholz rivela questa cosa, per cui il ministro della difesa inglese si è arrabbiato, ha detto l'uomo sbagliato, nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e beh, è uno sgambetto che viene fatto ai probabili alleati europei della difesa europea. Quindi quando parlo di Occidente spiazzato parlo anche di tutte queste contraddizioni che attraversano un fronte che si finge unito, ma tutto sommato non lo è, così come noi come non lo è l'altro. Però mi fermo qui per adesso. La compagnia dei 27. Bene, io invece passerò un po' alla seconda parte, che poi sulla locandina recitava più o meno il ruolo dell'Italia nella crisi mediterranea e medio orientale. Nel Mediterraneo l'Italia, col progetto Mattei, che è recentissimo, anche se viene usato il nome di ben altri tempi ed altre cose, comunque vede una convergenza sempre più stretta tra la compagine governativa che attualmente governa il paese e Eni. Non a caso questo progetto è stato immediatamente contestato da Macron, perché va ad aggravare la già declinante posizione francese nel continente africano. L'Italia, che si è schierata come alleata nella guerra di Israele, alla guida, questa è recentissima, con la fregata Martinengo in quella che è l'operazione antipirateria nel Mar Rosso al fine di consentire i trasporti di petrolio e gas contro gli attacchi degli Houthi, aumenta il suo ruolo militare. Oltretutto, lo dico per ricordare, non dimenticandosi che abbiamo missioni in Libano, in Iraq, e che comunque in totale abbiamo 56 missioni militari all'estero di piccola o meno o più grande entità. Su questo piano cercheremo stasera però di illustrare i rapporti economici e militari tra Italia e Israele. Facciamo un passo leggermente indietro, cioè durante il XX secolo questi rapporti sono stati determinati da due fattori: il peso relativo di Israele sul piano demografico ed economico, quindi un piccolo mercato per l'Italia, e soprattutto in quanto era in relazione all'importanza che l'Italia aveva con i paesi arabi che ci fornivano di petrolio, e non solo, e in cambio di grandi flussi di nostre esportazioni di merci e dell'impianto di fabbriche in alcuni di questi paesi africani. Fu pertanto facile per i governi di quella che veniva chiamata la Prima Repubblica mantenere e sviluppare sotto la formale equidistanza tra Israele e i paesi arabi una politica di apertura al mondo arabo, rafforzare gli interessi italiani in Libia, Egitto e Libano, consentire la presenza dei gruppi palestinesi in Italia senza in pratica subire attentati. La situazione è andata a cambiarsi nel XXI secolo per diverse ragioni. Primo, il grande sviluppo demografico e economico di Israele, che è diventato un mercato appetibile per l'industria e l'agricoltura italiana, a cui sono interessati oggi i più importanti gruppi industriali italiani: Finmeccanica, prima e ancora oggi Leonardo, la Fincantieri, Enel, Telecom. Un altro punto è che la politica americana nel Medio Oriente, che con la guerra al terrorismo, la cosiddetta definita la guerra infinita, e l'invasione dell'Iraq, ha creato una rete di nuovi rapporti finanziari e militari con Israele e con gli stati del Golfo, i quali preparano il terreno agli accordi di Abramo tra Israele e gli stati del Golfo. Terzo, l'interesse dell'Italia, fedele alleato agli Stati Uniti, a sviluppare rapporti con Israele che la potenza USA non ostacola, anzi favorisce. Quarto, la debolezza del movimento nazionalista palestinese, imprigionato nella rete degli accordi di Oslo, che toglie ogni remora allo sviluppo di fruttuosi rapporti tra Italia e Israele. Sia sotto il governo Amato nel 2000 e ratificato nel 2002, che col governo Berlusconi nel 2003, vengono stipulati accordi di cooperazione nel settore industriale, agricolo, scientifico, tecnologico e militare. Questi accordi invadono i campi più disparati: la medicina, la sanità pubblica, le biotecnologie, l'agricoltura, l'energia, l'informatica, l'ambiente, le comunicazioni, e lo spazio, non sto qui perché il pacco per leggere esattamente l'accordo è un pacco infinito, sì. Però il tutto, che questo coinvolge ministeri, istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e società di cui vengono finanziati i progetti ed è tuttora in vigore. Facciamo qualche esempio così per capirsi. Nel 2011 Finmeccanica firma l'accordo di vendita ad Israele di 30 aermacchi M346, veicoli da addestramento e bombardamento, in cambio dell'acquisto da parte dell'Italia di un satellite israeliano da osservazione OPSAT 3000 e di due aerei Gulfstream 550 imbottiti di apparati elettronici per la sorveglianza dello spazio aereo. Attenzione! Ciascuno di questi due aerei costa centinaia di milioni di euro e l'Italia è uno dei pochi stati che li possiede e li sta ora utilizzando per la sorveglianza del Mar Nero contro la Russia in piena guerra ucraina. Nel settembre del 2020 vi è un accordo per l'acquisto da parte israeliana di 12 elicotteri Augusta Westland 119 K Koala e due simulatori di volo. In cambio l'esercito italiano acquista lanciarazzi e missili controcarri Spike e simulatori avanzati per elicotteri. Dal 2020 Iveco Difesa e Israele collaborano per la costruzione di veicoli blindati. Questi sono accordi resi pubblici, ma ovviamente non conosciamo quelli segretati, come non conosciamo i rapporti triangolari tra industrie militari e forze armate di Israele, Italia e Stati Uniti. Quanto alla presenza stabile di gruppi e società italiane in Israele, citiamo Edison, Enel, Ferrero, Pizzarotti Costruzione, Intesa San Paolo, Sicim, che riguarda i gasdotti, Steam Electronics, Telit, la T-Sparkle che si occupa di reti telefoniche sottomarine di fibre ottiche. Ci sono gli scambi commerciali tra l'Italia e Israele e hanno raggiunto nel 2022, io ho questi dati, probabilmente verranno fuori tra un po' anche quelli, io ho quelli del 22, l'interscambio complessivo è di 4,8 miliardi di euro con un saldo ampiamente positivo per l'Italia che ha esportato merci per 3,500 miliardi di euro e importato per 1 miliardo 250 miliardi di euro. L'Italia è il quinto fornitore di Israele e il secondo europeo dopo la Germania, che così paga anche un po' i debiti che ci aveva da tempo. Infine, un discorso a parte va fatto per la ricerca e lo sfruttamento del gas nel Mediterraneo orientale, nelle zone economiche esclusive di Egitto, Gaza, Palestina, Israele, Libano, Cipro. Scoperti nel primo decennio del secolo, in particolare da Eni, Snam e dalla francese Total, i grandi giacimenti di gas sono sfruttati dall'Egitto, Zohr, da Israele, questo Zohr è il nome dell'azienda, Israele con Leviathan, Tamar e altri. Italia e Israele fanno parte dell'East Mediterranean Gas Forum, con Cipro, Grecia, Egitto e autorità nazionale palestinese, ma sono in concorrenza nella ricerca dei giacimenti e nella costruzione di gasdotti per trasportare il gas in Europa. La questione entra anche nella situazione creatasi con la guerra di Gaza. Israele infatti ha appena invitato Eni a operare ricerche e sviluppo dei giacimenti che si trovano nella zona economica esclusiva di Gaza. La questione riveste una grande importanza per tutti gli stati coinvolti ed anche per la Turchia, che vuole assolutamente entrare a far parte dell'AMGF anche con l'appoggio italiano, in quanto l'Italia aspira a diventare l'hub del gas mediterraneo per chiaramente vendere in tutta Europa. Questo è dunque motivo di cooperazione e di conflitto tra tutti gli stati coinvolti. Chiaramente tutta questa operazione, così per riprendere quello che diceva anche Sandro, in un quadro di questo marasma sociale e di destabilizzazione continua, sarà anche, come lo è, sarà anche fonte di conflitti tra gli stessi stati europei coinvolti. Questa illustrazione che ho fatto di questioni economiche che legano l'Italia e Israele ribadiscono i legami con la supervisione degli Stati Uniti e il ruolo della complicità dell'Italia con il gendarme israeliano, non dimenticando che con l'invio di armi all'Ucraina l'Italia è in guerra. Si potrebbe farla molto più lunga, ma poi dati e descrizioni, so che leggere gli accordi come vengono fatti dai vari governi è lungo e inutile sotto certi aspetti. Quello che invece è più utile è cercare, e adesso darò appunto la parola a Francesco per questo, di capire cosa bisognerebbe fare o perlomeno capire che sotto certi aspetti purtroppo c'è un ritardo enorme per quanto riguarda i programmi sia politici che la presa in considerazione di una necessità che, se c'è una parola che dovrebbe essere usata e sbandierata, è il disfattismo. E lascio a Francesco questo compito per raccontarcelo. Sì, allora, prima di entrare su questo, volevo solo collegarmi a una cosa che ha accennato Marco per dare un'idea di cosa significhi. L'Italia, diceva, ha venduto i cannoni ex 8 Melara, adesso Leonardo, sono cannoni navali, 4, che sono stati montati sulle navi israeliane. Questi sparano 120 colpi al minuto, non di proiettili così, ma così, sono 120 colpi e sono usati su Gaza. In questo momento, quando sparano con le navi su Gaza, sono con i cannoni fatti in Italia. Citava poi i missili Spike. Questi missili Spike esistono per elicottero, per terra, per base. Esiste anche una versione contestata, frammentazione, che esplode all'impatto e espelle migliaia di proiettili di tungsteno di 3 mm. Quando lo lanci su dei soldati o su una popolazione, mi sembra sia caro. Perché lo dico? I missili Spike, che l'Italia ne ha acquistati 2200, sono usati a Gaza, sono testati. Se voi andate sul sito del produttore, non tanto tra le righe, ti dice che queste armi sono collaudate. Cioè, dietro la perifrasi, sono collaudati sui palestinesi. La barbarie, Oscar Wilde scriveva che è la fantasia che impara dalla realtà, e questo è il caso di dirlo. Torniamo invece al discorso di sfattismo. Un po' da quando noi abbiamo iniziato a muoverci come centro di documentazione, abbiamo sollevato questo tema, per essere chiari. Disfattismo vuol dire che nel caso della guerra, di questa particolare forma di controrivoluzione preventiva, perché la guerra è anche questo, il proletariato non deve stare né con il proprio capitalismo né con quello avversario, deve essere contro tutti e due, perché il contenuto di classe della guerra nella fase dell'imperialismo e del capitalismo è reazionario, sono capitalismi che si combattono. Non rifaccio tutta la storia di quello che è successo nella prima guerra mondiale, del tradimento, di quello che poi è venuto ancora peggio nella seconda guerra mondiale. Il dato di fondo è che l'esperienza storica che noi abbiamo, che il proletariato a livello internazionale ha, è quella di cercare un fronte da appoggiare. È stato educato, abituato a questo. un nemico contro cui combattere, c'è qualcuno cattivo dall'altra parte, che è il male assoluto in genere, perché la propaganda si regge su questo, contro cui deve schierarsi. Allora, noi non è che interessi in queste situazioni ripristinare la verità storica, fare un po' di filologia, ci interessa capire oggi come ci stiamo e come ci si dovrebbe porre, fornire degli elementi per ragionarci, perché stiamo attraversando una fase, o meglio, nei 20 anni poco più precedenti eravamo in una fase che era quella che nei paesi occidentali eravamo assuefatti alla guerra, la guardavamo in TV, sentivamo parlare dell'Iraq, dell'Afghanistan, si combatteva lì, qualche volta arrivava qui con delle azioni di rivalsa, ma poco. Oggi stiamo passando in una nuova fase, la guerra è a poco più di 1000 chilometri da Milano, perché Kiev è lì, si sta avvicinando e lo si diceva prima, noi di fatto, indirettamente, ma siamo in guerra. Ma siamo in guerra perché o si dà credito all'inganno e alla formula per non far precipitare le cose che è stata un po' presa, ma se tu armi un paese che sta combattendo, se ci mandi gli istruttori, se dalle balie di Sigonella partono i droni americani che fanno ricognizione sul Mar Nero, quando sono sopra lì chiudono il trasponder, non si sa dove arrivano, e non sono i droni piccolini, sono quelli grossi, che possono fare anche molti danni se vogliono, sei in guerra. Non è che stai aiutando, sei in guerra, e noi siamo in questo tipo di situazione. Stiamo passando dalla situazione della suefazione, della guerra distante, condotta in un teatro che non c'è, a quello della guerra combattuta qui vicino, e ci stiamo scivolando. Noi non sappiamo il tempo che ci manca, ma nelle guerre ci si entra, ci si scivola, ci si finisce dentro. Come? Una settimana fa due Mirage francesi erano in volo di ricognizione sul Mar Nero, acque internazionali, aree internazionali. Ovviamente i russi si sono alzati in volo e hanno detto se andate avanti vi tiriamo giù. Questa volta è andata bene. Oppure, se vi ricordate qualche mese fa, un missile è caduto in Polonia, Biden si è affrettato a dire che era ucraino, era un missile russo che nonostante le armi precise scientifiche aveva sbagliato obiettivo. La prossima volta che succede Biden avrà la forza di fare questo o dice qualcos'altro o i polacchi accettano. Qualche mese fa invece proprio sul confine di Kaliningrad in Polonia sono stati proprio dei tornado italiani a intercettare i caccia russi che da Kaliningrad cercavano di entrare nello spazio aereo polacco. Anche lì finito tutto a taraluce e vino, però sono quelle situazioni in cui un non nulla e si scatena l'inferno. E fino adesso ci dicono non la vogliamo fare la guerra, però ce la stanno annunciando. Gli interventi fatti dalla von der Leyen sono una cosa spaventosa. Ci sta dicendo che ci dobbiamo preparare alla guerra. Non è inevitabile, però è meglio farlo. E la guerra ucraina sta insegnando che ci sono poche armi che non hanno il tempo per riprodurle in maniera necessaria, che mancano uomini. Chi li metterà questi uomini? L'intervento di Austin, il capo del Pentagono, che ha detto se l'Ucraina vince, la NATO è in guerra, gioco forza. Il portavoce russo risponde, queste sono pazzie, però ti dice, guardate che noi siamo pronti a colpire con il nucleare tattico. E gli altri dicono la stessa cosa. Propaganda, sicuramente c'è anche propaganda, ma la spinta alla guerra sta avanzando. E tanto anche per dare un'idea, sempre con queste famose cifre, se il percorso si avvicina, non è che i passi non vengono fatti. Dal 2022 le forze della NATO sul fronte est sono quadruplicate e sono 40.000 soldati già pronti in assetto di guerra. La forza di risposta rapida europea, con tutti i limiti che può avere di comando, di contraddizioni, ma da 40.000 soldati è diventata di 300.000. La presenza militare USA in Europa da 80.000 è passata a 100.000 soldati. Le truppe italiane in Lettonia, Lituania, queste sono aumentate enormemente, si stanno spostando le forze. Quello che a me preme è arrivare a tutto questo, questi sono segnali che noi abbiamo, quando trascrescerà in quello non lo possiamo sapere ancora, ma ci stanno preparando e stiamo passando. Primo, oggi non siamo in una fase di economia di guerra, oggi se ci tagliano la sanità lo fanno perché vogliono privatizzarla, ma tra un po' lo faranno perché veramente i soldi vanno per le armi. Si cercano gli escamotage. Il governo italiano sta dicendo nel bilancio dovremmo fare in modo che nel deficit non siano conteggiate le spese militari. Vediamo se passa, ma anche se fanno questo per le ragioni di deficit, a pagarlo siamo noi. Non è che avviene qualcosa di diverso, a pagarlo economicamente, politicamente e così via. Quello che conta è, e qui si ritorna al disfattismo, che siamo arretrati nella risposta. Siamo arretrati nel senso che non voglio parlare dell'arretratezza generale del proletariato nella sua risposta, che è una classe che non riesce a difendere i propri interessi, che in autonomia figurarsi un terreno enorme, politico, come è quello della guerra. Ma vorrei parlare un po', i ragionamenti che stiamo facendo, da noi compagni, noi forze che si mobilitano, l'area che in senso generale possiamo definire antagonista, magari in maniera imprecisa in questo modo, siamo estremamente arretrati. Dopo 2 anni di guerra che c'è in Ucraina, l'Ucraina è ancora un po' una delle tante guerre. Noi non siamo riusciti ad avere momenti reali di mobilitazione nazionale contro la guerra in Ucraina e per il disfattismo in Ucraina, né ai primi maggio né in altre occasioni. Sì, ci sono un mucchio di iniziative che ci sono oggi, tutte importantissime, per dire, secondo me è giustissimo parlare della questione della NATO, delle servitù militari, tutto, posso fare delle fiere di guerra e cose del genere, ma ci vorrebbe un minimo comune denominatore, che l'Italia è già in guerra sull'Ucraina e che dobbiamo muoverci con una logica di disfattismo rispetto a questa guerra, e di disfattismo perché in realtà politicamente la maggior parte di quelli che parlano di pace, i governi, finanziano la guerra, portano avanti la guerra, danno le armi all'Ucraina e sostengono Zelensky. Ma la cosa non è riducibile solo a quello. Oggi abbiamo ancora delle forze, e questa è una cosa che va considerata, avranno un peso inferiore, ma ci dicono che dobbiamo stare con i russi. All'interno delle aree che si muove ci sono questo tipo di posizioni. Lasciamo perdere le nostalgie, ma si arriva fino a dire la guerra ormai si è sviluppata fino ad aprire la tendenza verso la terza guerra mondiale. O questa viene bloccata dalle mobilitazioni popolari, e non è che ne vediamo moltissime, oppure bisogna augurarsi in una chiara e netta vittoria dei russi sul blocco occidentale in Ucraina. Allora, non è solo un problema di tifo, è che tu mi stai riproponendo, come in passato, che il proletariato deve scegliere un fronte di guerra e deve scegliere, in questo caso, il fronte del nostro nemico, perché il nemico principale del mio nemico, del mio oppressore, così mi risolverebbe il problema. In realtà avremo un proletariato intruppato in quel fronte di guerra. Oppure faccio l'esempio contrario. Abbiamo in Ucraina e nell'area slava soprattutto socialisti, compagni socialisti, che non sono i socialisti nostri qua, che sono, o anarchici, che sostengono che bisogna stare con le forze armate ucraine, con la guerra, con la resistenza ucraina. Il 24 febbraio, come noi eravamo in piazza qua, loro erano in piazza a Berlino a fare una manifestazione anche piuttosto nutrita, che sostiene la necessità di combattere in Ucraina. C'è tutta una rete di solidarietà, se andate sul canale Telegram, si chiama Qui siamo in guerra, quella italiana, e raccolgono soldi per visori notturni, droni, costruire, ci sono fabbrichette di droni in Ucraina, combattono in Ucraina, ci sono i caduti, e sostengono una cosa precisa. Il male peggiore è l'impero russo. Noi dobbiamo bloccare l'impero russo, poi si aprirà una prospettiva, partecipando a questa guerra, di liberazione anche del proletariato, di possibilità di maggiore autonomia di classe. Allora, non la faccio molto lunga, perché più o meno sono le stesse cose che dicevano quelli della socialdemocrazia tedesca alla prima guerra mondiale. Quando hanno votato i crediti di guerra, sono andati in guerra facendo il famoso tradimento. O è la stessa cosa che diceva Cesare Battisti, intendo quello della prima guerra mondiale, per non fare confusioni, quando diceva che bisognava combattere con l'Italia contro l'Austria, contro gli imperi del male, contro la Germania. Adesso nel nostro fronte il nemico principale è la Russia. Potranno essere i cinesi tra un po' di tempo, o assieme a loro i cinesi, o chi altri, in questa fase del multipolarismo. Dall'altra parte ci si dice di stare con quelli che sono gli avversari, perché il proletariato non deve avere autonomia di classe alla fine. Noi invece dobbiamo iniziare, a partire da questo, a gettare le basi del disfattismo. Molti dicono che il disfattismo è stata un'esperienza storica del 17, quando ci sono state le guerre, quando è stato possibile girare le armi contro i propri ufficiali, contro il proprio esercito. Ma in realtà, dopo un'esperienza storica di partecipazione alle guerre, di subordinazione, se non iniziamo a parlarne, a praticarla oggi, e praticarlo vuol dire rottura con le politiche del nostro imperialismo, con le sue forniture d'armi, tentativi come il blocco dei porti sono più che necessari, devono servire a far sì che si diffonda l'idea che in guerra non ci si deve andare, che unarmiamoci e partite su questa cosa, che quando ci parleranno della necessità di difendere l'Europa, che se Putin non viene fermato avanza fino a Roma, come si diceva degli slavi al tempo della prima guerra mondiale, poi ci si fa la guerra assieme, ma è un altro discorso. Se non si fa questo, ci sarà schiacciati sotto. E la guerra è anche controrivoluzione preventiva, è leggi che ti impediscono di manifestare, di muoverti, che ti mandano al fronte. Noi siamo manchevoli da questo punto di vista, come movimento, di non essere riusciti a dare un reale sostegno a quanti in Russia si sono opposti alla guerra. Sono, veniva lo accennava prima Sandro, per la Russia e per l'Ucraina. In Russia sono svariate centinaia che sono arrestati perché si sono opposti alla guerra. Oggi in Russia, che dice che è contro la guerra, cioè la legge dice che diffonde notizie false, non solo va dentro in detenzione amministrativa o poi condannato, ma gli vengono anche sequestrati tutti i suoi beni di proprietà. C'è questo tipo di legge. La gente viene condannata. Uno dei quelli più noti nel nostro campo non è Navalny, per l'amor di Dio, è Boris Kagarlinsky. Nessuno qui ha detto pressoché nulla. È un compagno che ha scritto delle cose molto interessanti, sia sulla guerra, che l'ha denunciata, sia su altre cose, però qui non sappiamo quasi neanche chi sia, e viene lasciato a chi combatte l'impero russo questo tipo di campo, invece dovrebbe essere nostro. E noi invece dobbiamo ribaltare questo tipo di terreno, farlo nostro, fare nostro il discorso della guerra, e dobbiamo farlo fino in fondo. Ma sostanzialmente si ha difficoltà politica. Dico una cosa che magari potrà non piacere, ma la arretratezza nostra si vede anche quando si fanno cose. Sabato scorso abbiamo fatto una mobilitazione, una manifestazione bellissima sulla Palestina. Abbiamo dato un segnale di partecipazione, un segnale anche di vicinanza ai palestinesi che nelle settimane precedenti erano quasi da soli giù in piazza, qui a Milano quantomeno. Ma quella manifestazione era partita e preparata inizialmente anche come giornata contro tutte le guerre. Ma questa rivendicazione è un po' svanita nel corso del giorno, perché ci sono queste difficoltà politiche tra le forze che si muovono, tra i sindacati, ad affrontare il discorso della guerra e del disfattismo, a dire che il proletariato deve radicalmente schierarsi contro le guerre, mettere tutta la propria vita, tutta la propria esistenza contro la guerra. La guerra è il momento topico in cui il capitalismo arriva a schiacciare le contraddizioni sociali, la lotta tra le classi. E se noi fin da oggi non riprendiamo questo tipo di discorso, ci troveremo a dover combattere le guerre, perché è questo che stanno preparando, è quello a cui ci stanno portando. Qui siamo, diciamolo, soli. Il proletariato è solo, l'intero arco politico centrodestra, centrosinistra in Italia, ma vale anche per l'estero, per gli altri paesi, nelle modalità in cui si mette, è a favore della guerra, è schierato o con un fronte o con un altro, fornisce armi da una parte o dall'altra, non è su altri terreni. Il proletariato ha la funzione di carne da cannone, come sta facendolo la popolazione ucraina, che è carne da cannone per una guerra per procura, e come lo sta facendo il proletariato russo, che è quello che combatte per l'esercito russo. Noi dobbiamo essere contro questo, ritirare fuori questo elemento che è centrale nella lotta di classe. Se invece continuiamo a tirarci fuori le storie dei nazionalismi, dei chauvinismi vari, non ne veniamo fuori. E questo è un po' il tema centrale che noi stiamo cercando di sollevare e di portare all'attenzione, perché sennò veramente si va verso la barbarie. E voglio chiudere con un discorso, però, per capirci anche su questa cosa. Questo è quanto riguarda una guerra tra capitalismi. Non esiste un problema di autodeterminazione nazionale tra l'Italia e la Francia, tra l'Italia e la Spagna, tra questi paesi, tra l'Italia e l'Inghilterra. Sono, qualunque cosa ci possono raccontare, capitalismi che si scontrano per il predominio, per far fronte alla concorrenza, per schiacciare l'avversario. Il capitalismo però nel suo sviluppo non ha eliminato l'oppressione nazionale, non ha eliminato il problema dell'autodeterminazione nazionale, non ha eliminato il problema di quello che sta avvenendo con le guerre coloniali. Noi siamo di fronte oggi al problema della guerra di Israele, a questa barbarie, alla pulizia etnica. Quella è pulizia etnica, è una cosa che Israele sta facendo dal 1947 con un piano allora. Una pulizia etnica che è andata avanti a bassa intensità per tanti anni, con tutto l'insediamento dei coloni, la distruzione dell'integrità territoriale palestinese, oggi ad alta intensità con la guerra genocidaria di Gaza, è appoggiata e avvallata dal blocco occidentale. Rispetto a questa guerra noi non possiamo essere semplicemente che la valutiamo come se fosse una guerra tra imperialismi. La valutiamo diversamente. Siamo dalla parte delle masse del proletariato palestinese. Questo punto di vista incondizionatamente. Ovviamente questo non comporta che noi non si possa fare, da internazionalisti, critiche alla conduzione di quella lotta, alla sua prospettiva. E pensiamo, lo accenno solo perché è un discorso molto complesso politicamente, ma per arrivare a un punto che ci interessa sul disfattismo, oggi in Israele la prospettiva dei due popoli di Stato non esiste più, è stata definitivamente sepolta, se mai fosse esistita. Noi siamo tra quelli che hanno sempre sostenuto che due popoli, due stati non esisteva e gli accordi di Oslo erano una fregatura. Sono stati usati per distruggere ancora di più la situazione palestinese. Oggi si pone il problema di due popoli, uno Stato. Questo Stato non è lo Stato di Israele, non è lo Stato sionista, non è uno Stato confessionale che sia ebreo o islamico, è un'altra cosa, di liberazione dall'oppressione nazionale sotto ogni forma. Ovviamente questo discorso chi se lo può porre? La borghesia nazionale democratica rivoluzionaria palestinese, quella dell'OLP per intendersi in grandi linee, ha fallito, è finita, non è più una borghesia rivoluzionaria, fa degli accordi che sono, si sono rivelati fallimentari. Hamas, non possiamo chiedergli essere dei compagni, sono una forza islamista come tale, reazionaria, ma non solo per questo, ha una prospettiva che non può far leva sul proletariato. Il proletariato palestinese, le masse povere palestinesi e il proletariato israeliano e arabo sono il fulcro della situazione di oppressione. Va tenuto presente che l'area del Medio Oriente e del Nord Africa è una delle aree con la più alta disuguaglianza sociale al mondo. Se uno vuole andarsi a vedere delle fonti non, tra virgolette, di parte, è uscito un bellissimo saggio su Pagine Estere di Michele Giorgio su questa cosa, con una ricchissima bibliografia sull'impoverimento di quest'area. Il proletariato lì si è già mosso, si muoverà ancora, ricordiamoci il Libano, la Siria, l'Egitto è dietro il baratro. Questi sono gli alleati del proletariato palestinese. Il proletariato palestinese, per muoversi, deve collegarsi al proletariato israeliano. Solo una visione proletaria potrà permettere. Questa cosa per dire, non per insegnare che cosa deve essere fatto, per dire che se questa è la prospettiva, dal punto di vista dell'internazionalismo, del disfattismo, un allargamento della guerra nell'area medio orientale, che per la politica avventurista di Israele è possibile, anche perché, come si dice, questa fase del multipolarismo, della difficoltà americana, è stata valutata anche da Israele in qualche modo. Ha detto, io vado avanti e faccio quello che voglio, tanto chi è che mi dice che non lo posso fare? Questi non mi levano le armi, non mi levano, non hanno la forza. Ma questo multipolarismo comporta che se va avanti, se ci troviamo in situazioni in cui gli Hezbollah entrano in guerra, se ci entra lo Yemen, se ci entra la Turchia è chi sovvenziona e chi dà asilo politico ad Hamas in questa fase, noi non possiamo certo appoggiare queste forze da un punto di vista internazionalista. Dobbiamo rivendicare il diritto, se vogliamo, alla lotta, dobbiamo dire innanzitutto che non devono intervenire le forze del nostro imperialismo, ma la prospettiva del proletariato è diversa. Noi ricordiamoci che tutti questi regimi dell'area, siano dittatoriali, siano pseudodemocratici o così via, fanno una cosa: opprimono radicalmente il proletariato di quest'area e usano la questione palestinese come uno degli elementi per deviare anche la protesta di queste masse, le contraddizioni sociali. Noi questo ce lo dobbiamo, non dobbiamo cadere nell'ipotesi che si appoggino queste forme di lotta intercapitalista. L'Iran, chi appoggiamo? Il regime iraniano o chi si oppone al regime iraniano? Io sono per l'opposizione di chi è contro il regime degli Ayatollah, far saltare il quadro del controllo capitalista e far saltare anche questi regimi. E questa cosa deve essere collegata al discorso dell'internazionalismo e del disfattismo. E qui possiamo fare una cosa fondamentale: contribuire a creare le condizioni per un appoggio al proletariato palestinese, e possiamo farlo andando a denunciare e contrastare la politica del nostro governo sulla questione. L'Italia, e ripeto, questo va sottolineato, il centrodestra italiano e il centrosinistra italiano appoggiano Israele. Quando dicono diritto alla difesa, stanno parlando nei fatti concreti del diritto alla pulizia etnica dai palestinesi, stanno parlando del diritto ad armarsi e a continuare la guerra, a negare l'autodeterminazione, a perpetrare la barbarie del sionismo in Israele. Ricordiamoci, Israele ha 90 testate nucleari, secondo il SIPRI, non aderisce ai trattati nucleari, è un pericolo anche lei per l'area, per l'umanità. Però dobbiamo inquadrarlo in questo contesto, in quest'area. Il proletariato viene chiuso in un'incudine, in una via d'uscita, senza via d'uscita apparenti. Nel discorso della guerra gli viene chiesto di schierarsi. È il momento di iniziare a dire e a muoversi, a costruire il terreno dell'autonomia di classe, dell'autonomia del proletariato, a cominciare dall'opposizione radicale a tutte le politiche dei propri governi, a non credere nelle sirene del nazionalismo, dello sciovinismo, dell'autodeterminazione. Oggi, e chiuderò qui, in Israele ci sono poche forze israeliane e palestinesi che si muovono assieme parlando di questo due popoli, due stati. Hanno l'illusione di farli un quadro democratico, libertario. Non è così. Sarà un quadro, se c'è, di lotta di classe dispiegata del proletariato palestinese e del proletariato israeliano. Oggi sembra parlare di fantascienza, perché il proletariato israeliano è legato mani e piedi alla politica dello Stato israeliano, è subordinato, ha subito una controrivoluzione preventiva da tempo su questo terreno. Ma è la porta stretta, il nodo in cui, in qualche modo, il proletariato deve saltare a livello internazionale. E noi possiamo dare una mano a questo passaggio solo rompendo con la politica del nostro imperialismo, per quanto riguarda l'Ucraina, per quanto riguarda Israele. E chiudo qua. Ecco, se qualcuno sia tra i collegati o tra i presenti vuole fare qualche domanda, chi è qui venga qui, perché possono sentire tutti, anche quelli che non sono qua presenti, viene qua al microfono. No, allora volevo aggiungere due cose, ma previste fin dall'inizio, perché all'inizio vi ricordate ho detto chiamiamo questo è finita la cuccagna, ma guardate che finendo la cuccagna in forma simbolica per l'Occidente un po' finisce anche per noi. Noi siamo stati un po' abituati, come sinistra, anche radicale, estrema, ad abitare il centro del mondo. Dicevo prima, scherzando, negli anni 60 potevamo contestare la guerra in Vietnam ascoltando i Beach Boys. Contraddizione in termini, ma reale, no? E tutto sommato quello che dicevamo poteva essere recepito da formazioni che in qualche modo avevano poi un... fuori dal continente europeo, fuori dal continente americano, aveva una formazione simile alla nostra per motivi molto semplici, l'influenza che l'Occidente con i suoi ideali liberali, illuministici, risalenti alla rivoluzione francese aveva ancora sul resto del mondo. Ricordo sempre che Ho Chi Minh nelle sue prime manifestazioni citava sempre la dichiarazione di indipendenza americana. Per rivendicare ciò che lui chiedeva per il Vietnam, ma dall'altra l'esistenza dell'Unione Sovietica che in qualche modo sosteneva e finanziava gruppi tra virgolette di sinistra in Palestina e in tutto il resto del mondo, e questa azione poi era supportata anche da una sinistra europea che esisteva formalmente, poi magari a casa nostra faceva delle cose diverse da quelle che però che in qualche modo aveva interesse a mantenere una sorta di presenza politica e ideologica anche in raggruppamenti di altre parti del mondo. Questa cosa qui non c'è più, non c'è più. L'Occidente ha perso interesse per i popoli altri, ha perso notevolmente interesse con tutti i suoi ideali, e sono entrati in contraddizione con i modi di vivere di popoli altri. Si è dimenticato a lungo di cosa capitava, una piccola nota che ho dimenticato di fare prima. Oggi si sta riaprendo la guerra nel Kivu, che è una regione del Congo ricca di materie prime, in cui già quando ero bambino a 10 anni, gli italiani erano presenti, i famosi 13 avviatori italiani mangiati dai cannibali del Kivu mentre portavano i giocattoli ai bambini. Altro francesismo, col cazzo che portavano i giocattoli, portavano le armi in supporto ai mercenari che già lì combattevano per il Belgio, eccetera, li hanno presi e li hanno uccisi. E nel Kivu però è una regione prossima ai grandi laghi del Congo, dove tra il 96 e il 2003 noi qui comodamente addormentati non ci siamo accorti che c'è stata la guerra mondiale africana con 5 milioni di morti. Ora, tutto questo, e sapendo spesso, non perché studiano sui libri di storia gli africani o da altre parti, ma perché l'hanno provato sulla loro pelle, non porta buona acqua alla causa occidentale, anche quando si presenta di sinistra. Cosa dico, cosa voglio dire con questo? Che la nostra opera oggi è molto più difficile e deve essere molto più radicale di quella che è stata un tempo. Cioè oggi noi non possiamo più permetterci la negazione dell'esistenza della guerra. Oggi noi possiamo essere contro la guerra, ma dire no alla guerra, cose di questo genere. Ma la guerra fa parte integrante del sistema in cui non solo noi stiamo vivendo, ma in cui siamo vissuti, cresciuti e ingrassati, a danno degli altri popoli. Oggi questa guerra ci torna in casa e ne vedremo delle belle, purtroppo, perché diceva giustamente Francesco prima, fino a qualche anno fa parlare di guerra nucleare, quando io ho pubblicato, lo dico ogni volta, ma non, a casa mia si dice gli asini di Cavour si lodano da soli, quindi non voglio fare quello, non un detto piemontese. Ma quando io ho fatto il libro La guerra che viene, tutti, anche in ambienti di sinistra, di quelli vicini a Carmilla, di cui io sono redattore, ma tu sei matto, queste cose qui non ci sono più. Mi ricordo Wu Ming 1, ve lo dico a tutti, scrivetevi Wu Ming 1, che quando io presento il libro a Bologna dice: ma no, le guerre non ci sono più perché Stati Uniti e Russia si sono messi d'accordo sul gas. Ecco, questa era la lungimiranza della sinistra, che ha fatto sì che le guerre piombassero fin qui, con l'incapacità totale di dire le cose che per esempio ha detto Francesco prima, che sono importantissime. Perché la guerra non c'è più, oppure noi non vogliamo la guerra. Ma ancora l'altro giorno a Brescia, durante un'assemblea di cui come adesso parlavo insieme, qualcuno del pubblico, tra gli organizzatori, no, ma noi adesso vogliamo le Nazioni Unite che dicano no, neghino la guerra. Dicono: come si fa a negare la guerra? No, dobbiamo smetterla di raccontarci queste balle. Ecco perché prima dicevo: non dobbiamo essere umanitari, dobbiamo essere politici. Lasciamo l'umanitarismo agli altri. Poi io piango tutti i giorni per i bambini palestinesi o quello che succede, ma non è quella la soluzione. Dobbiamo affrontare politicamente la questione. Dire che la guerra c'è, esiste, ci siamo già dentro. Questa falsità. Tutte le volte i giornali che dicono: beh, adesso Israele fa questo, temiamo per un allargamento della guerra. Ma più allargata di così. No? Oppure, stavo dicendo prima, il discorso della guerra nucleare è una roba da matti. No? Ma figurati, adesso la bomba atomica, ma chi la usa? Io ricordo benissimo che il direttore della stampa all'epoca, il giorno dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ha detto: adesso la guerra nucleare diventa, era Giannini, no? Il democratico Giannini, la guerra nucleare diventa una possibilità. È vero che adesso i russi minacciano la guerra nucleare, ma il primo che nel 23 ha autorizzato il first strike come dottrina militare americana, cioè tirare per primi la bomba atomica, è stato il presidente Biden e il Pentagono. Mentre invece i documenti che attualmente vengono fuori sull'uso dell'arma atomica russa, i famosi documenti segreti, erano documenti prodotti in Russia più di 10 anni fa in previsione teorica di un possibile scontro militare con la Cina. Con questo non voglio dire che Putin non voglia usare l'arma atomica, ho sempre detto: guardate, di sicuro con la Russia su quel terreno l'Ucraina o gli altri non vinceranno, perché piuttosto tirano l'atomica. Però voglio dire, un discorso che era proibito mentalmente adesso è diventata la norma. Ci si chiede: ma la bomba atomica la devono avere tutti gli europei? Usiamo quelle francesi? Per esempio il Glucksmann, di cui parlavo adesso, dice Macron fa un solo errore, deve concedere l'uso delle atomiche francesi a tutta la forza di difesa. Quindi è già prevista. Siamo entrati in questa follia senza accorgercene. Così come non ci siamo accorti di tanti altri massacri avvenuti in giro per il mondo, o in cui talvolta abbiamo assunto la posizione un po' democratica, liberale, sì, però questi fanno. Mi ricordo il mio ex compagno di partito, Adriano Sofri, quando nel 2001 appoggia la guerra in Afghanistan dicendo una guerra per le donne, su Repubblica, due pagine centrali di Repubblica di Adriano Sofri sulla guerra per le donne in Afghanistan. E tutte queste sciocchezze, sciocchezze ideologiche, che dobbiamo buttare a mare. Il nostro nemico, il capitalismo, in tutti i sensi, in quello che sta producendo, in quello che sta causando, e non possiamo avere nessuna pace se non c'è lo scontro con il mostro che anima tutto questo, a ovest come a est e anche in Medio Oriente, perché guardate, tra i primi nemici dei palestinesi c'è l'Arabia Saudita, c'è l'Egitto, ancora prima forse degli europei e degli americani. E questa finzione di trattativa lunghissima avviene nella speranza che prima o poi Hamas ceda e via, facciamone fuori un po', che così poi c'è meno gente che resiste con le armi. Perché poi noi siamo diventati tutti non violenti, siamo tutti per la pace, ma noi non, sinceramente non possiamo più per essere per la pace ad ogni costo. Io non sono per la pace ad ogni costo. Se la guerra si avvia, speriamo che arrivi a rovesciare, con la forza del proletariato, dei soldati che disertano, che sono essenziali, questo sistema. Non riportare la pace mortifera di prima, che produceva milioni di morti, però non nel mio giardino, un po' più in là non li vedo. Questo è un punto che va assolutamente chiarito, perché se no poi per carità collaboriamo con tutti, io faccio assemblee con preti, parroci, con tutti quanti quelli che vogliono parlare di questa guerra. Però questo resta per me un punto fermo, su cui non si può più arretrare, non si può dire no vabbè certo facciamo un aggiustamento, vedrai che prima o poi l'ONU, se si è indebolito l'Occidente, tutto quanto. Guardiamo l'ONU in questi giorni, certo Guterres fa le sue dichiarazioni eccetera, e dopodiché bon, veto e la guerra va avanti per i palestinesi. Questa è la cosa che dobbiamo avere in mente, non c'è possibilità di aggiustare. Rispetto al riferimento un po' scherzoso che facevo prima, ascoltavamo i Beach Boys e contestavamo, non possiamo più fare gli hippie. Peace and love and music, no. Guerra alla guerra è la nostra parola d'ordine, nessun'altra. Adesso se qualcuno vuole intervenire, no, volevo solo, sì, adesso vi faccio arrivare. Volevo solo dire, siccome il nostro chef sta preparando una zuppa, qualcosa, insomma, se chi si vuole fermare, se mi alza un po' la mano, abbiamo anche un'idea un po' più... No, vabbè, lei lo sapeva. Vabbè, dai, ok, va bene. Tanto per aver l'idea, grazie. Scusa. No, volevo solo aggiungere una cosa su quanto diceva Sandro sulla questione del nucleare. Apparentemente noi stiamo parlando di una cosa spaventosa, ma i passaggi questi li fanno. La NATO ogni anno più o meno fa un elaborato che chiama concezione strategica. Nella concezione strategica del 2010 sostanzialmente la NATO ha posto fine al monopolio nucleare degli Stati Uniti e ha dato la possibilità a paesi come l'Italia di essere depositari di vettori nucleari e in determinate condizioni di poterli usare. Quindi la preparazione anche della guerra nucleare c'è. E ricordando nel passato, cioè prima aggressione all'Iran, Schwarzkopf, comandante in capo, ipotesi 1 poi abbandonata di attacco, uso di bombe nucleari tattiche sull'Iraq. Quindi da tempo è sdoganato a questo tipo di cosa e fa parte della teoria e della pratica della guerra. Proprio la base di Chiari vicino a Brescia è quella con le bombe atomiche sotto il comando italiano. Cioè le atomiche sono americane, però chi decide è il comando italiano della base. E notate bene, siamo oltretutto diventa un obiettivo militare terrificante posto tra Brescia e Milano al centro della pianura padana, immaginiamoci cosa può succedere. Se vieni qua perché non ti sentono se no online. Io ovviamente ho apprezzato tutto quello che è stato detto e anche apprezzo tutto il lavoro che non è, cioè non è, come dire, alla ribalta del mondo anche di sinistra, insomma, che voi fate, che invece è estremamente importante. Volevo solo, per esempio, hai citato Glucksmann era un giovanotto che ma anche Andrea peggio ancora. Vabbè. La questione appunto è adesso purtroppo è chiedersi che fare, perché appunto tutto lo scenario che appunto avete descritto e credo che sia esatto è ancora più, almeno a me, insomma, è ancora apparso ancora più terribile dalle parole della signora von der eccetera, che propone appunto l'armata europea. L'armata europea non è una cosa da poco, perché sono centinaia di miliardi che gli stati europei dovrebbero impiegare per fare questo. Centinaia di miliardi che ovviamente, appunto, rispetto al, non mi piace la parola proletariato, ma ai lavoratori, insomma, alla gente che non vive di interessi e di altro, significherà appunto un abbassamento drastico della capacità della possibilità di vivere in modo civile. Ora, questo potrebbe anche essere, insomma, come mi pongo il problema del che fare, mi potrebbe essere anche un elemento importante da agitare, da presentare come un elemento di unificazione. Ho letto il vostro pezzo, insomma, in cui si dice che bisogna unificare tutti i pezzetti di movimento su una contraddizione, su un problema principale che è la guerra, no? Perché altrimenti appunto l'indifferenza, tanto il mio giardino non viene occupato, continua fino all'infinito. C'è un amico, un compagno, insomma, non so, un bifo, che appunto invece di disfattismo parla di diserzione oppure di fuga. Però appunto disertare o fuggire, però dentro, prima di tutto deve essere dentro al pensiero, all'ideologia di ciascuno, cioè fuggire da qualsiasi aggancio al lavoro salariato, cioè qualsiasi aggancio che produce, fa produrre appunto il capitale. E questo è un problema che deve investire ovviamente tutto l'apparato di sinistra, dai sindacati, eccetera, eccetera, se è possibile. Certamente non siamo nella fase appunto dei grandi movimenti, però appunto bisogna porsi al di là appunto dell'allarme, cioè del chiarissimo allarme, della chiarissima analisi, bisogna porsi che cosa possiamo fare. Per quello che mi riguarda, io appartengo a una lista che si chiama Effimera, vorrei proporre appunto alla mia lista tanto scrivere un manifesto che deve circolare in tutti gli ambiti, insomma, della sinistra antagonista, alternativa, eccetera, ma deve arrivare anche a tutti gli altri, insomma. questo è un po' il problema. Insomma, il problema mio è come far girare e insomma far mettere in moto un meccanismo che serva ad affrontare il problema in termini anche appunto di consapevolezza della miseria che ancora prima della guerra l'apparato bellico, che di antica memoria anche di Cooper ne aveva parlato eccetera, ci sta portando, insomma. Va bene, vi ringrazio di tutto il vostro lavoro. Ma io penso che per capire meglio come andranno le cose in futuro, più o meno lontano, più o meno vicino, bisogna aspettare le elezioni americane. Le elezioni americane saranno nel novembre, come di norma. Il presidente verrà insediato a gennaio dell'anno prossimo, quindi quasi fra un anno. E nel frattempo le cose continueranno come adesso, cioè ci saranno i fronti in Ucraina, ci sarà il genocidio come è stato detto, ma comunque la pulizia etnica purtroppo in Palestina. Chi vincerà le elezioni? Se le vince Trump, come sembra, secondo me qualcosa cambia. Cioè Trump, sì, c'è il complesso militare industriale americano, come al solito, che spinge per la produzione di armi e quindi per la guerra. Ma chi è che compra le armi? Lo Stato, la stragrande maggioranza, lo Stato americano, che quindi, a parte che erano rimasti senza munizioni, stranamente non ne avevano più. Comunque, Trump chi rappresenta? Rappresenta la massa dei contribuenti americani, quelli che loro chiamano classe media, che comprende anche i proletari in questa edizione, che diciamo non ha più voglia di pagare tante tasse. O perlomeno diciamo che perlomeno che gli ritorni qualcosa, insomma la spesa pubblica è quella che è, sembra così. Comunque già prima della guerra Trump aveva detto agli europei ragazzi, qui non è che solo noi dobbiamo pagare i soldi della NATO, dovete pagarli pure voi. Quanto dovete pagare? Il 2% del PIL. Questo era proprio, infatti ormai quasi tutte le nazioni europee stanno raggiungendo il 2% del PIL di spesa militare. Questo è diciamo l'obiettivo che viene dichiarato e che viene fatto. E quindi ormai sono già 2 anni che c'è questa guerra in Ucraina. Quanto è durata la prima guerra mondiale? 4 anni? 3, 4, adesso più o meno quell'altra pure la seconda guerra mondiale. 4, 5. Se andiamo avanti ancora un altro anno così siamo a 3 anni. È una guerra permanente, che così l'abbiamo chiamata almeno nelle centro di documentazione in passato. Quindi certo non è che è una cosa che non possiamo fare niente, il disfattismo rivoluzionario, sono d'accordo, però diciamo sulla una progressione automatica di questa guerra in uno scontro mondiale, quindi probabilmente anche atomico, sono più cauto, secondo me, dei relatori che hanno parlato prima. Cioè, andrà avanti, o ne andranno avanti ancora altre decine di guerre, ma questa è la mia idea, può essere sbagliata, cioè una terza guerra mondiale, come non quella che dice il Papa, ma quella che effettivamente è una distruzione totale del pianeta, ma comunque una distruzione totale poi anche dei capitalisti e del capitale alla fine. Non so, razionalmente mi sembra difficile pensarlo, poi l'irrazionale nella storia c'è sempre, può essere. No, scusate se riprendo la parola io. Visconti ha fatto bene a ricordare Trump, no? Una cosa che prima mi sono dimenticato di dire. Evidentemente nel corso di quest'anno ci sono due eventi fondamentali, le elezioni europee e quella di Trump, non solo le elezioni, perché anche nelle elezioni europee possono avvenire cambiamenti che potrebbero rallentare certi, non fermarli. La razionalità capitalista mi lascia abbastanza perplesso, perché è pronta a distruggere il mondo con l'inquinamento, con qualsiasi cosa, quindi non vedo nessuna traccia di razionalità se non quella legata al profitto immediato nel capitale. Mentre invece vedo in Trump non un individuo speciale, ma la continuazione classica dell'isolazionismo repubblicano in America. Trump è un classico repubblicano americano. I presidenti dei grandi interventi militari sono stati tutti democratici. Wilson nella prima guerra mondiale, Roosevelt nella seconda, Kennedy in Vietnam, Johnson che ha continuato in Vietnam. L'unica eccezione è stata rappresentata da Bush padre e figlio, perché tutto sommato anche Reagan di guerre ha finanziato i Contras eccetera eccetera, ma non ne ha scatenate tante. Quindi c'è questa pratica. Qual è il pericolo che sopravanza un po' rispetto a quello che Visconti diceva? È che si stiano creando le condizioni in cui, qualunque sia il presidente americano che vinca, l'America è già coinvolta, l'Europa è già coinvolta in una guerra, cosa che agli americani non andrebbe male, ha funzionato nella Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale formalmente è cominciata il 1° settembre del 1939, fino al gennaio del 1942 gli americani non sono intervenuti in guerra se non prendendo lo spunto, ricordiamoci tutti i passaggi, Pearl Harbor, ma il primo intervento militare gli americani lo fanno sbarcando dove? In Tunisia e combattendo contro le truppe francesi. No? Poi un intervento americano mette in crisi tutto lo schieramento dell'asse in Africa, eccetera, e poi interverranno nel Pacifico, che era il loro centro di interesse principale. L'Europa era relativa nel momento della Seconda Guerra Mondiale. Tanto in Europa c'era poi la Russia, che è finanziata dagli stessi americani, terra a testa ai tedeschi, eccetera. Quindi non mi stupirei di passaggi di questo genere. L'importante è che l'Europa sia già coinvolta e di passi ne sta facendo tanti. Poi vedremo con le elezioni europee. Non sono così convinto che un Parlamento in cui dovesse essere presente forte l'AFD, la Le Pen, eccetera, faccia gli stessi passi nei confronti della Russia che ha già fatto, per esempio, il Parlamento liberal-democratico socialista della von der Leyen e di tutti gli altri, ma dipende dai passi che vengono fatti nel frattempo. Cioè, bisogna stare attenti alle volontà e ai meccanismi automatici che sono stati messi in atto, proprio perché poi questa razionalità, cioè una cosa è certa, che fin dall'inizio della guerra in Ucraina non c'è stato nessun tentativo di trattativa. Mai. Qualunque commentatore politico che abbia un minimo di cervello in testa lo ha notato. A differenza di tante altre guerre, proviamo, qui la trattativa non c'è mai stata, non è mai stata cercata. Nei primi giorni di guerra, se qualcuno di voi si ricorda, c'era stata subito una commissione russa e una ucraina che si erano incontrate in Bielorussia, dove, e nei giorni immediatamente successivi Zelensky aveva già comunicato che due membri di quella commissione ucraina erano stati fatti fuori dai servizi ucraini proprio perché erano traditori. Probabilmente erano quelli che volevano trattare di meno su qualche questione territoriale. Quindi è vero, no, che arrivare alla guerra atomica sarà difficile, bla bla bla, però per anni non si è più parlato di guerra nucleare e tutto sommato quando all'inizio degli anni 60 si manifestava, io ero ancora bambino quindi non ho manifestato, fin lì non ci arrivo, però voglio dire, la crisi di Cuba, che ancora oggi è ricordata come chissà quale momento, di ma era una barzelletta a confronto a quello che sta succedendo in Ucraina oggi. Tanto è vero che Unione Sovietica e Stati Uniti si spartivano allegramente le due metà del mondo quasi, tu governi a casa tua, io governo a casa mia, per adesso va bene tutto così. E se uno cercava di mettere i piedi nel piatto dell'altro si litigava un po', ma insomma era un po' un litigio tra moglie e marito. Per quello la guerra fredda è sempre stata fredda e non è mai diventata calda. Poi per interposta persona si sono scontrati in Africa, però gli americani intervenivano in Sud America, nessuno diceva niente. I russi intervenivano in Cecoslovacchia, Polonia, Berlino Est e nessuno diceva niente. Quindi bisogna stare attenti a molti aspetti. Sicuramente ci sono delle variabili politiche, perché ho detto prima per Netanyahu, lo dico per Zelensky, lo dico, ci sono delle variabili politiche rispetto al Parlamento europeo, rispetto alla elezione di Trump, ma questo non vuol dire che fermi sicuramente una tendenza alla guerra allargata come quella in cui siamo testimoni. Dipende anche dalla velocità dei fatti con cui dei fatti che si svolgeranno nei prossimi mesi. Se c'è qualcun altro. La Cina è vicina. Io sono uno di quelli convinti che se ci sono due paesi che hanno poco interesse a fare la guerra adesso sono la Cina e l'India, che stanno diventando le due superpotenze mondiali. E la guerra, in qualsiasi modo, sarebbe per loro d'ostacolo, non certo un motivo di sviluppo. Taiwan è un'incognita, ma ho l'impressione che sia più sventolata dagli Stati Uniti che non dalla Cina. Poi la Cina che ha costruito isole artificiali nel Mar della Cina per avere delle basi navali, eccetera, eccetera. Certo, un paese di quella potenza, tecnologia infinitamente, dal punto di vista dell'elettronica, ha una tecnologia spesso molto più avanzata di quella occidentale, ma per adesso la Cina credo... Cioè, mentre per l'Occidente, con questo non voglio dire, mi tengo lontano dal dire che l'Occidente ha voluto questa guerra, l'ho detto prima e ne sono convinto, cioè i meccanismi della storia sono molto più complessi di quelli che riducono, ah, gli Stati Uniti hanno fatto così per ottenere quello, poi così gli altri hanno fatto in quel... Però sicuramente quello che adesso deve difendere il trono, il grasso che cola, la ricchezza è l'Occidente. Proprio perché altri li stanno erodendo. La catena del valore. La catena del valore erosa e che si sposta da un'altra parte. Quindi i cinesi sarebbero ben contenti di andare avanti altri 30 anni, diventano prima potenza mondiale, qui siamo e tutto il resto. No? Non credo che siano i più aggressivi sulla scena. Certo, nella situazione attuale, la Russia ha venduto molte cose alla Cina, la Cina ha contraccambiato e così via, ma la Russia ha anche venduto un sacco di... Il maggior acquirente di petrolio in questo momento russo è l'India, così come l'Arabia Saudita ha accettato il pagamento in moneta cinese del suo petrolio venduto alla Cina, quindi voglio dire ci sono dei cambiamenti importanti, qui non c'è tempo di parlare di tutto, quindi del dollaro, della perdita di centralità del dollaro, però ci sono anche questi aspetti all'interno di quello che noi stiamo vedendo e non sono cose secondarie sicuramente. Vieni. Non a microfono. Non si sente. Che schifo. Ci sono tutti quelli collegati che non sono qui. Ma tanto non c'è bisogno. No, io dicevo... C'è bisogno. Allora, ma che brutto il microfono. No, volevo dire questo. Mi riallaccio al comune denominatore che dobbiamo trovare. Io ringrazio il Sicobas che mi è andato a Ghedi, che ha fatto uno sciopero di 8 ore per la Palestina, e ha fatto questo sciopero nonché la manifestazione contro la guerra. Il problema è che è un sindacato, non c'è il soggetto politico che dà un percorso futuro, questo è il problema. Allora io ringrazio di nuovo il Sicobas per questa cosa, che è vero, ha portato in piazza generi diversi che l'altra volta avete detto non va troppo bene fare comune, come è successo Genova 2001 che avevo detto io, perché c'è il pacifismo. E però cos'altro? Scusami, la risposta te la sei data da sola, un sindacato non è un'organizzazione politica. Appunto. Poi sinceramente sono stato anche presente all'assemblea di Brescia, perché ero relatore come stasera all'assemblea dei Sicobas, in cui si discuteva l'organizzazione di Ghedi, e ti assicuro che non tutti hanno aderito, e lo scontro politico tra organizzazioni diverse col Sicobas è stato piuttosto vivace, da quelli che volevano portare le bandiere zariste a Ghedi, proprio non sono andati. No, però voglio dirti, questa cosa di mettere insieme tutti, poi non è vero, non si riesce a mettere insieme tutti su certe parole d'ordine. E non possiamo smettere certe parole d'ordine soltanto per far arrivare altri, questa è la questione. Allora, il problema non era accusare qualcuno nello specifico, Sicobas, eccetera. Cerchiamo di capirci. Il problema è che politicamente l'insieme di compagni, di organismi, di strutture che si muovono sono estremamente arretrate sul terreno della lotta alla guerra. Non c'è un'acquisizione corale, collettiva, che il principale problema è l'Ucraina. Il Sicobas so cosa ha chiesto e che cosa ha fatto per quella manifestazione, ma abbiamo anche visto che, siccome non la fa da sola, non puoi non registrare che c'è stata una trasformazione nelle presenze, e ben venga che sia stato un sostegno ai palestinesi, però è mancato l'altro aspetto, è mancato perché non ci sono posizioni politicamente chiare sull'Ucraina a livello complessivo. Perché non ci sono sulla guerra all'interno del movimento, perché ci sono ancora vecchi spettri che si aggirano di appoggio a Tizio Caio. Siamo molte volte orfani di quando c'era una Russia che appoggiava qualcuno, di quando c'era qualcun altro da appoggiare, e questa solitudine che ha il proletariato nella sua più vasta accezione è pesante, è difficile da sopportare. E prima si chiedeva, ad esempio, cosa vuol dire oggi il disfattismo? Cosa vorrebbe dire? Partiamo dalla fine. La fine è una situazione di guerra in cui il proletariato è capace, inquadrato nel fronte, di tenersi le armi e rivolgersi sulle proprie comandi militari e dice: non combatto più, pace subito, guerra, basta, è finito. Questo è capitato una volta nella storia, ci ha tentato sul fronte occidentale, un pochino, ci hanno fatto anche un film carino su questa cosa. In Italia è avvenuto, se ne è parlato molto di meno, ma ormai gli storici ci raccontano un po' che cosa è avvenuto a Caporetto nella prima guerra mondiale. I soldati hanno messo giù le armi e hanno detto: me ne torno a casa, lì sbagliando un po' di non tenersi da queste armi, perché poi hanno trovato i carabinieri che li fucilavano giù così, oppure venivano presi e messi nelle trincee in piedi, in cima, di fronte ai soldati austriaci che gli sparassero dai nostri governi di allora, tanto buoni e tanto bravi, che hanno fatto la prima guerra mondiale. Oggi noi abbiamo una battaglia politica che ci deve portare a diffondere contenuti che rifiutano la partecipazione alla guerra in qualche fronte, non per un imperativo morale astratto che anche c'è, siamo contro la sua barbarie, ma perché l'out-out, socialismo barbarie, è che o il proletariato si sa tirare fuori da questa prospettiva, oppure ne viene travolto, viene messo a combattere. Oggi cosa possiamo fare? Possiamo dire che quando tu ti muovi contro le servitù militari, mi devi mettere dentro, non alla fine del volantino che c'è anche la guerra in Ucraina, ma che è centrale che oggi ci si mobiliti contro la guerra in Ucraina, contro l'appoggio. Se fai la lotta contro la fiera delle armi, di queste cose, non vai lì per dire agli espositori, ma per dire a chi si muove, a chi partecipa, che ci stanno portando in guerra, che non ci vogliamo andare, che loro armiamoci e partite, non ci va bene, e che vogliamo armarci contro di loro. Questa è guerra alla guerra. Siamo in una fase iniziale. Se ci fosse un movimento di massa, se. Abbiamo avuto esperienze storiche che si andavano a bloccare i treni con i soldati che partivano. Abbiamo piccole esperienze che blocchi i porti, che blocchi dei camion. È questo che va fatto, e va fatto nel cuore della partecipazione alla guerra. Non è semplice. Questo è, non è che abbiamo lezioni da dare a chiunque. Andare a bloccare un convoglio militare che parte per l'Ucraina non penso che siano le cose più semplici che ci siano oggi come oggi. Però dobbiamo dire che non ci stiamo, che vorremmo farlo, che non abbiamo da difendere nessuno in quella guerra. Se non partiamo da questo a combattere politicamente chi oggi invece si dice, o per un motivo o per l'altro, che dobbiamo stare con Putin o che dobbiamo stare con Zelensky o con chi per esso, non ne veniamo fuori. Come dobbiamo rompere con chi ci dice che Israele ha il diritto alla difesa, cioè che ha il diritto alla pulizia etnica, una barbarie di quel genere? Dobbiamo dire che siamo contro tutto questo, e che chiunque voglia in qualche modo porsi dalla parte degli oppressi o parte da qui, o vuol dire che sta dall'altra parte, secondo me. Grazie. Volevo solo, se potevate spendere una parola sul ruolo della Chiesa. Sì, la nostra. Sì. Nostra. Ad esempio, se potreste spiegare, ad esempio, con il viaggio che ha fatto lì il cardinale, quello che è stato inviato, ok, cioè, che funzione ha avuto, che ruolo vuole avere, cosa sta giocando, anche dietro il discorso cosiddetto pacifismo, cioè in questo momento, perché di peso comunque da un punto di vista di coscienza, no, cattolica, del genere, sul piano del pacifismo ha un suo peso, che ruolo vuole giocare? Perché questa cosa a me sfugge, per esempio, molto dal punto di vista come lettura politica, capito? Se voi avete delle, diciamo, delle. Posso dire? Ma io, per esempio, avevo scritto un articolo su Carmilla già più di un anno fa, quando il Papa era molto sotto attacco perché non era abbastanza bellicista, no? E non venivano questi attacchi soltanto da giornali come il Giornale o Libero, ma dalla stampa e da Repubblica, no? Tutto sommato c'era un discorso sotterraneo in cui si diceva che beh, insomma, però la Chiesa deve prendere più posizioni. Successivamente Papa Francesco ha corretto un po' il tiro, no? E però vediamo che anche su Gaza basta dire che è una carneficina e ti accusano, perché il discorso bellicista va avanti, quindi questa cosa qui è sicura. Io credo, e qui mi lancio molto in avanti e tutti potremmo correggermi, anche i miei colleghi qui, Papa Francesco non è solo pacifista perché è il Papa della Chiesa, sappiamo benissimo la Chiesa Cattolica ha costruito e ha fatto massacri infiniti nel passato, l'idea di crociata nasce lì, non facciamo tutte queste storie, però un Papa che viene fuori dall'Argentina. E per la prima volta un Papa espressione di una parte di quel mondo che con l'Occidente è in rotta. Quindi anche il Papa fa politica, e difatti quando se ne andrà questo Papa, sarà interessante vedere che tipo di scontro ci sarà tra Chiesa occidentale e Chiese altre, per quale Papa, perché lui ha costruito abbastanza una Chiesa rivolta a quell'aspetto lì, e non lo fa soltanto a fini di pacifismo, fa proprio per costruire un altro potere politico ecclesiastico che si differenzi da quello classico europeo, eccetera. Con una variabile, se uno segue un po' i fatti della Chiesa, oggi ci sono più prelati modernisti, pacifisti, per esempio in Germania, di quanti non ce ne siano in Africa. Se vogliamo trovare una Chiesa bella conservatrice, dobbiamo andare in Africa. E questa è una delle contraddizioni all'interno della Chiesa. E mentre invece in Sud America troviamo una tradizione di un altro tipo, e poi ci sono... Quindi quando analizziamo la Chiesa, io personalmente ancora una volta ho fatto assemblee con alcuni parroci del Bresciano, uno poveretto immediatamente, non per colpa mia, ma è stato immediatamente rimosso dall'incarico nella sua parrocchia, è stato spedito al confine in una valle, eccetera, e invece poi ho avuto anche, devo dire sinceramente, il piacere di fare un'assemblea con il parroco, quello che era stato il parroco della Chiesa Cattolica di Gaza, quella che recentemente è stata bombardata, ma lui da tempo già non andava più a Gaza, di solito andava in Cisgiordania, ma ormai non può nemmeno più andare in Cisgiordania perché Israele gli ha tolto il permesso di calcare il suolo di Israele, della Palestina, di qualsiasi altra cosa. Aveva delle posizioni, però qui parliamo a livello di individui con una certa forza. A livello di istituzione Chiesa, certo, questa Chiesa non si è schierata così apertamente né contro la Russia né tutto sommato ha difeso anche i palestinesi, ma bisogna anche vedere non solo l'ipotesi di pace, ma l'ipotesi politica che c'è dietro. Secondo me c'è un po' questo aspetto di questo scontro dentro la Chiesa su chi deve comandare, che riproduce un po' la cosa che dicevo prima, perché tutto sommato lo scontro tra papato e impero, quello classico degli imperatori e dei papi, si è riprodotto negli ultimi decenni tra Chiesa e Stati Uniti. Non tutti i papi hanno avuto un buon rapporto con gli Stati Uniti, tutto sommato nemmeno Papa Francesco. Però parliamo sempre, non perché questi allora sono amici nostri perché litigano con gli Stati Uniti, loro fanno la loro politica da 2000 anni. Guardate che Engels, il buon Friedrich Engels, ha scritto nell'Ottocento che i socialisti dovrebbero imparare dalla Chiesa ad organizzarsi e avere la continuità politica. Non perché gli piaceva il cristianesimo, ma per la capacità, perché l'unica organizzazione all'epoca, adesso noi potremmo trovare l'islamismo, altri, ma che aveva una struttura internazionale in grado di interagire, di ubbidire a un comando centrale, di fare, era proprio la Chiesa cattolica, molto più di quella protestante, invece suddivisa in varie correnti. Quindi dico questo non perché adesso diventiamo social cattolici o cattocomunisti, ma perché insomma sicuramente una strategia politica il Vaticano ce l'ha, e proprio perché c'è una strategia politica, la lotta all'interno per chi decide questa strategia politica è ferocissima. E da questo punto di vista Papa Francesco, così un po' trascinando eccetera, ha tirato delle belle botte all'interno della gerarchia cattolica tradizionale. Però, ripeto, non per questo diventa mio amico e penso che sia un combattente per una società migliore. Giusto per dare un'idea della contraddizione che c'è nella Chiesa. Noi abbiamo una stampa che è pressoché pro-guerra ucraina, cioè non saprei dire quale giornale. L'Avvenire, che non è un giornale che apprezzi, ha pubblicato il 22 febbraio non so se era in copertina di questa immagine, c'è la Meloni con due carri armati e dice: l'Italia sale sui carri armati e apre la borsa, 8 miliardi di euro per acquistare 132 Leopard tedeschi, approvato oggi alla Camera. E sotto: e hanno pure avuto il coraggio di tagliare 400 milioni di euro ai disabili perché la coperta era corta. Andate a vedere le votazioni della Camera e vediamo chi ha votato per i carri armati. Tutti quelli che ci vogliono portare in guerra, centrodestra, centrosinistra e anche la Schlein, che sarebbe quella che deve opporsi alla guerra e portare la pace. Vabbè, non so cosa facciamo, se qualcuno possiamo anche chiudere. Di cooperazione di 10 anni che ha firmato la Meloni, ci dice qualcosa in merito? L'accordo di cooperazione sulla sicurezza. E quello sulla sicurezza è segretato adesso, Quello non è ancora disponibile. Sostanzialmente non si conosce il testo, ma si sa che vale, è un accordo a sfondo militare, che vale a prescindere da un'eventuale conclusione del conflitto adesso. I contenuti è uno dei tanti trattati segreti militari, come l'abbiamo anche con Malta, penso che conti di meno, ma è uno dei tanti. Ce n'è uno con Israele, che è in vigore. E che visione rientra nella logica di guerra. Allora posso dire la mia, magari sì. Scandalizzata. Meloni non è affatto fascista, è la negazione del fascismo da questo punto di vista. Fa tutto ciò che il capitale internazionale ritiene utile e quello che il capitale finanziario. Quello che diceva prima giustamente Marco, mi sembra, a proposito delle politiche medio orientali italiane finite con la Prima Repubblica, quelle erano eredità del fascismo, dell'autonomia italiana del Mediterraneo in Medio Oriente e in Estremo Oriente, quando Mussolini aveva delle mire anti-impero britannico in India, quando Gandhi veniva in Italia e poi andava anche in Germania, il pacifista Gandhi venuto sia da Mussolini che in Germania da Hitler a cercare. Quindi voglio dire, sono proprio politiche internazionali diverse. Tutto sommato Mattei, secondo me, si ribalta nella tomba a sentire gli accordi attuali di Meloni, che chiama il piano Mattei questo per l'Africa, perché Mattei aveva proprio un piano di autonomia italiana, non a caso inglesi, scusate, francesi e americani gli hanno fatto saltare per aria l'aereo. Quindi quando noi scioccamente continuiamo a dire che questo è un governo fascista, così facciamo contenta la Schlein e tutta la sinistra, così hanno qualcosa per vantarsi e noi siamo antifascisti, in realtà stiamo assistendo a una commedia in cui una nazione che ha sì degli interessi, ma che appartengono ormai anche a un capitale finanziario che si è internazionalizzato, non ha più una classe dirigente in grado di esprimere una propria autonomia politica, non per questo l'appoggerei, no? Però si contende potere e poltrone. Questo sì. Noi veramente assistiamo alla battaglia delle rane e dei topi, quando sentiamo destra e sinistra che si accusano vicendevolmente di essere o filo putiniani o non abbastanza filo sionisti, oppure quando si chiede alla Russia di dichiararsi antifascista. Cioè siamo nel campo delle barzellette. Vorrei almeno i presenti, soprattutto i più giovani, non fatevi più attrarre da questa polemica vergognosa. Qui non ci sono più né fascisti né antifascisti, ci sono dei fedeli servitori del capitale finanziario disposti ad andare fino in fondo a una guerra, ma nessuno rappresenta un'alternativa rispetto all'altro. Come ha sottolineato anche Francesco, in Parlamento, centrodestra, hanno votato tutti per quella cosa lì. E aggiungo ancora una provocazione, le manganellate a Pisa, sì. Dal 68 in avanti gli studenti, le manganellate, anche più violente, l'hanno sempre prese i governi di centro-sinistra. E Genova è stata preparata con Napoli, con Napoli il 17 marzo 2001, che è stato l'antipasto di Genova. Poi c'è stato il cambio di governo e quelli hanno continuato. Ma smettiamola di andare a fare propaganda per la Schlein, per il PD o per questa falsa sinistra dicendo che certo che gli altri sono odiosi dal nostro punto di vista, sono anche ignoranti, le hanno tutte. Ma smettiamola di far finta che in Italia ci sia uno scontro tra fascismo e antifascismo a livello istituzionale o mediatico di qualsiasi altro genere. Mattarella che diventa difensore degli studenti o Repubblica che urla al terrorismo ogni volta che un notava alza una mano E poi, oh, gli studenti di Pisa hanno preso le manganellate. Io avevo 15 anni quando mi hanno massacrato i carabinieri a Torino. Li ringrazio ancora adesso, mi sono svegliato. Va bene. Grazie. Mio padre a casa me l'ha data, non ha scritto. Non ha scritto dicendo, oh, il mio figlio di 15 anni, povera gioia, preso... Mi avevano menato col moschetto, quindi sono arrivato abbastanza marito. Chiudiamo. Va bene, dai. Vi ringraziamo tutti e alla prossima. Grazie.